Gamberone che giaci sul risotto dentro il piatto. Ricordi cosa accadde prima del misfatto? Nuotavi felice dentro al mare spensierato, invece tutta un tratto ti hanno catturato. Ed ora che siamo io e te infine da soli vicino a un soufflé, io mi rammarico e poi maledico il genere umano che ti ha tradito. Chicchi di riso, adesso nuoti dentro a un primo piatto. Ricordo il tuo sorriso prima del misfatto. Cameriere, mi porti per favore del formaggio che a questo amico devo rendere omaggio. Cibando mi parlo con te, magari poi ordinerò un caffè. Io mi compiaccio ma in fondo son tristo, penso al secondo, un bel fritto misto. Chicchi di riso, sapore deciso, triste sciagura, ma che goduria. Gamberone, è grazie a te che il riso è tinto in rosa. Lieto è il prezzemolo che su di te si posa. Ovviamente mi ti accompagno con del vino bianco, e di ammirare tutto non sono mai stanco. Se Gamberone.